Intanto lanciare i nostri musei civici sulla piattaforma internazionale Google Arts and Culture insieme a importanti musei e istituzioni del mondo, perché sono oltre 2000 fra gallerie e archivi presenti. Mettere in comune il nostro patrimonio con una finalità di oltre che internazionalizzazione, soprattutto di condivisione e di partecipazione delle persone. L'altro elemento per noi importante era soprattutto offrire la possibilità di conoscere e di immergersi nel nostre collezioni, in un patrimonio che è molto ricco, il patrimonio dei musei civici di Bologna, attraverso dei temi trasversali che permettessero di fare degli itinerari culturali attraverso le nostre 6 aree museali, che vanno dall'archeologia all'arte contemporanea, al patrimonio industriale, quindi alla storia economica di questo paese. Attraverso 5 storie, i temi che abbiamo scelto, quindi è stato un progetto trasversale che permette non solo di fare la scoperta di queste collezioni e immergersi, ma far sì che questi itinerari possano essere anche fisici oltre che digitali, e valorizzando appunto il sistema museale cittadino e metropolitano. La scelta in questo lavoro collegiale e collettivo abbiamo deciso appunto di valorizzare 5 temi importanti: l'origine delle nostre collezioni, che caratterizzano il patrimonio museale dei musei civici, anche la storia di Bologna; donne nella storia, attraverso appunto dall'archeologia fino alle donne artiste di oggi e anche quelle legate all'impresa; la bellezza, quindi non solo l'igiene del corpo come cura, come fenomeno sociale, ma anche se pensiamo al comparto per esempio produttivo del beauty, oltre che legato al packaging su questo territorio. L'altro tema è il cibo, una storia alimentare che va di oltre 2000 anni, fra cui ovviamente la mortadella vista come elemento culturale, e poi ovviamente non poteva mancare l'industria della seta, perché appunto Bologna è stata la capitale europea della produzione della seta, del velo da seta, quando Bologna era una sorta di Venezia dell'Italia centro-settentrionale. E questo progetto si inserisce in un piano più ampio di digitalizzazione dei musei? In un piano più ampio, sì. Adesso in questo progetto abbiamo iniziato con 127 opere digitalizzate in un percorso immersivo da ampliare, perché ovviamente oggi ci sono 5 storie. Tra l'altro si può fare una navigazione, un'esplorazione attraverso dei temi, perché tutti i nostri oggetti che abbiamo digitalizzato poi sono individuabili attraverso i tag, le parole chiave di Google Arts and Culture. Quindi in realtà ecco l'importanza di essere su una piattaforma internazionale insieme a oltre 2000 istituzioni, perché in realtà facendo una ricerca su un altro museo internazionale su un dato elemento, una parola chiave, si può rinvenire l'oggetto, l'opera bolognese. Fa parte di un progetto più grande sulla digitalizzazione, perché noi abbiamo vinto appunto ho presentato un progetto alla Regione Emilia-Romagna sul progetto di Digital Humanities, che abbiamo appunto il nostro progetto risultato vincitore. Quindi ci stiamo occupando appunto di questo progetto importante digitalizzazione per la creazione di una Digital Library, una piattaforma digitale che conterrà appunto le collezioni dei nostri musei, anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, ovviamente per una larga partecipazione.